Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, la nuova poesia di Luca Sardo Giambonino, dal titolo Bisbigliare. Voglio starmene tranquillo ad osservare il tempo passare, sdraiato su un comodo divano in attesa di divenir vecchio e stanco. Non parlarmi dei giorni gloriosi dell'età mia, delle scelte fatte, dei grandi studi. Parlami piuttosto della tranquillità dell'anima. Parlami piuttosto del tempo che fugge via, ma non sento il bisogno di rincorrerlo per averne di più. Parlami da amico del tempo andato, delle grandi promesse e dei tanti fallimenti, ma fallo sottovoce, che io ti senta appena.